Ho la faccia sudata di freddo, lo sento. Ho casa qui dentro, cazzo sto uscendo. Le gambe e le braccia non stanno facendo quello che io le sto ordinando. Si sta impossessando di me, ma aspetta. Perché cazzo fa male, ma non voglio che smetta. Il demone è uscito, mi ha sequestrato, buttato per terra, impugnato la penna. Porto buio sulla terra, ok? Neghi ciò che faccio, ehi. Che tanto poi non spaccio, nei quei poveri quartieri, dei ricchi bastardi coperti di brain. Non rispetto a te, non rispetto a lei. Quando sei felice arrivo con il mio dolore, che ti tolgo questo riso da coglione. La tua morte è solo quello che vorrei, ehi. Non sono cattivo, ci manca. Odio chi caga nel piatto e ci mangia. Sopprimo il tuo amore con il mio dolore. Sono la prolunga bianca avvolta al tuo collo di latta. Io sono il tuo demone, non voglio il tuo bene. Potrei segarti il femore e usarlo per picchiarti. Ma sta tornando enemy, è ora di lasciarci. Ma cazzo devi credermi, potremo rivederci. Adesso sono stanco, fottetevi bastardi. Lo sento già, vi manco. Firmato Demon.